Che cos'è per te l'amore? L'amore per esempio una cosa che a me mi piace come sentimento, no, veramente è un sentimento che non è malvagio, perché è raro, cioè è raro che uno riesce a trovare l'amore. Però devo dire che c'è anche un'offerta esagerata, no, di amore. Non è che uno corre il rischio di rimanerci senza, ci può rimanere senza per un piccolo periodo, però poi non lo so, vai, capito, e tu puoi sempre immaginare che lo ritrovi negli occhi della cassiera del bar sotto casa, oppure, capito, della collega d'ufficio, oppure in una voce, capito, della centralinista della SIP. Quindi, voglio dire, è raro, è una cosa che ti fa soffrire, però, viva Dio, ce ne sta tanto, cioè non te la fanno mancare, ecco. L'amore mi piace anche per questo. Quando c'è, quando non c'è, è per le prospettive del fatto che non ti può mai mancare, secondo me. Poi uno può dire, ma io senza amore, no, come fai, c'è una sola volta nella vita, sono fatti suoi, l'intervista la stai facendo a me, ti dico io come la penso, no? Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. I ragazzi che si amano si baciano in piedi contro le porte della notte, e i passanti che passano li segnano a dito. Ma i ragazzi che si amano non ci sono per nessuno, ed è la loro ombra soltanto che trema nella notte, stimolando la rabbia dei passanti. La loro rabbia e il loro disprezzo, le risa, l'invidia. Ma i ragazzi che si amano non ci sono per nessuno. Essi sono altrove, molto più lontano della notte, molto più in alto del giorno, nell'abbagliante splendore del loro primo amore. Qualche volta vorrei essere un maschio, sia nelle parole che nelle azioni, starmene in ozio, una gamba all'aria e le chiavi della macchina che titillano l'uccello, lanciare occhiate alle belle pupe che passeggiano e inchiodarle con un lungo sguardo impertinente, mano nei jeans, denti serrati e quella carne stra disponibile come un giocattolo tra le vostre cosce, davanti al quale noi ci genuflettiamo, ci inginocchiamo e con il quale voi ci conciate per le feste. Vorrei poter andare a donne, abbordare quelle puttane immondizie al cui cuore si spezza quando lui le divora e poi le sputa fuori, le caccia via. Eh no? E non è giusto che se la spassino solo loro, questi stronzi con la voce grossa e catarrosa e una dozzina di scopate la settimana, bocche da cavernicoli che urlano, ruttano, ubriachi di birra. E se osassi farlo io, che ignobile bagascia, esclamerebbero con le loro luride bocche. Per questo mi piacerebbe essere un maschio, passeggiare in su e in giù con gli amici e fare piccole, brevi guerre con un coltello arrugginito dagli schizzi di sangue e un vomitare di bestemmie, e non dover sempre smacchiare con olio di gomito e una buona dose di Dash le impronte della sua spregevole libidine. Avere soltanto il mio uccello a cui pensare e da tenere sotto controllo, la mia belva feroce da abbeverare e nutrire di tanto in tanto, fottutissimo tanto. immergere il mio lucignolo in un qualsiasi luogo buio e caldo senza scrupoli, né gemiti d'amore. No, non questa sera, amico mio. Questo è un giorno pericoloso e i tuoi girini potrebbero appiccare il fuoco al mio forno. Non lo farai, vero? Starai attento. Ammazzare? Che cosa direbbe Socrate? Quei greci tutti omosessuali. Ragazzi, chissà che feste pazzesche. D'estate avranno avuto tutti la ragazziera a Creta. A, Socrate è un uomo. B, ogni uomo è mortale. C, ogni uomo è Socrate. Quindi ogni uomo è omosessuale. Beh, io non sono omosessuale. Beh, sì, una volta alcuni cosacchi mi fecero dei fischi dietro. Io ho quel tipo di corpo che eccita, beh, ambo i sessi, ma ci sono uomini eterosessuali e uomini bisessuali e uomini che non pensano affatto al sesso e allora fanno l'avvocato. Seduto sul banco di una scuola tanti anni fa, un bimbo distratto, distrutto dalle idee di papà. Immobile sguardo, ma dentro vedevo più in là. Ti ho visto mentre ti infilavi una mano nei calzoni e lui che ti guardava, sorrideva e ti toccava. Quel giorno ho visto un mostro, ma non l'ho detto mai. Dopo anni ti ho incontrato, hai sorriso e ho detto ciao. Nudo, suo corpo nebbioso ondeggiava, la lingua bagnata di dolce veleno che mi penetrava e disse: non tornerai dal tuo Dio, o forse anche lui è come noi. Costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore se te ne rimane. La costruzione di un amore non ripaga del dolore, è

ha soltanto agito. Si può agire prima di decidere o senza decidere? Sì. Ho esaminato, capito, accettato, discusso e manipolato la mia diversità solo pochi minuti prima di morire, per il tempo cioè necessario a togliermi esemplarmente la vita. Ripeto dunque che se la mia vita fosse stata uno spettacolo, non sarei stato io a trovarmi davanti al dramma, dovuto per tradizione ad un contrasto. I flashback delle ultime vicende della mia tragedia non potrebbero essere state dramma o dilemma che per la coscienza di un eventuale spettatore. Che cosa deve fare chi è diverso? Negro, ebreo, mostro, cosa sei tenuto a fare? Ricostruire in te la realtà rendendola nuovamente reale? Progredire anche tu disobbedendo anche alle leggi della pazzia? Oppure devi invece accettarla. Accettarla così come l'hai trovata. Non hai altro da fare diverso che perderti per così ritrovarti? Devi accettare l'odio razziale, quasi questa accettazione fosse la ragione per cui sei al mondo. Se privato di simpatia e di diritti umani, potrai così fare santo te stesso e il mondo? Ma io non sono riuscito a rispondere a queste domande, se non confusamente, qualche istante prima di impiccarmi. Ho esaminato, capito, accettato, discusso e manipolato la mia diversità solo pochi minuti prima di morire, per il tempo cioè necessario a togliermi esemplarmente la vita. Devi accettarla. Accettarla così come l'hai trovata. Devi accettare l'odio razziale, quasi questa accettazione fosse la ragione per cui sei al mondo. Ma io non sono riuscito a rispondere a queste domande se non confusamente, qualche istante prima di impiccarmi. Io non sono riuscito a rispondere a queste domande se non confusamente, qualche istante prima di impiccarmi. L'ho fatto solo con una buttana. Mi ricordo che lei sospirava, ma poi i miei amici mi dissero che lo faceva per finta. Però io non ci credo, perché alla fine mi ha pure detto che aveva un bel corpo da maschio. E io mi ero quasi innamorato. Non era tanta giovane e neppure tanta bella, ma io pure adesso la penso sempre. A me mi sa che morirò senza aver baciato mai una ragazza, perché sono troppo brutto. Per questo dipende quando ero bambino. Sono andato a sbattere una macchina. Adesso qui tutti mi chiamano King Kong. Tanti dicono che l'amore è ficcare, ma non è vero. Io con mia moglie, che adesso aspetta un bambino da me, i momenti più belli sono quando ci diamo certi baci piccoli piccoli e siamo a occhi chiusi, come si vede al cinema, che quando due si baciano chiudono sempre gli occhi. Io non lo so che è l'amore. Solo una volta, quando avevo 11 anni, il giorno che Mariella cambiò casa, ho sentito una cosa nel cuore, che però non lo so se era amore. Lei aveva 10 anni, capelli neri e occhi verdi, e da quando era nata avevamo giocato insieme. E così quella mattina, mentre il camion se la portava via alle case nuove, io ero triste. Thank you.

mio carissimo ragazzo, questa è per assicurarti del mio amore immortale, eterno per te. Domani sarà tutto finito. Se la prigione e il disonore saranno il mio destino, pensa che il mio amore per te e questa idea, questa convinzione ancora più divina che tu a tua volta mi ami, mi sosterranno nella mia infelicità e mi renderanno capace, spero, di sopportare il mio dolore con ogni pazienza. Poiché la speranza, anzi, la certezza di incontrarti di nuovo in un altro mondo è la meta e l'incoraggiamento della mia vita attuale, debbo continuare a vivere in questo modo per questa ragione. Un caro amico mi è venuto a trovare oggi. Gli ho dato parecchi messaggi per te. Mi ha detto una cosa che mi ha rassicurato, che a mia madre non mancherà mai niente. Ho sempre provveduto io al suo mantenimento e il pensiero che avrebbe potuto soffrire delle privazioni mi rendeva infelice. Quanto a te, grazioso ragazzo dal cuore degno di un Cristo, quanto a te, ti prego, non appena avrai fatto tutto quello che puoi fare, parti per l'Italia e riconquista la tua calma e componi quelle belle poesie che sai fare tu, con quella grazia così strana. Non esporti all'Inghilterra per nessuna ragione al mondo. Se un giorno a Corfù o in qualche isola incantata ci fosse una casetta dove potessimo vivere insieme, la vita sarebbe più dolce di quanto sia mai stata. Il tuo amore ha ali larghe ed è forte. Il tuo amore mi giunge attraverso le sbarre della mia prigione e mi conforta. Il tuo amore è la luce di tutte le mie ore. Se il fato ci sarà avverso, coloro che non sanno cos'è l'amore lo scriveranno, lo so, che ho avuto una cattiva influenza sulla tua vita. Se ciò avverrà, tu scriverai. Tu dirai a tua volta che non è vero. Il nostro amore è sempre stato bello e nobile, e se io sono stato il bersaglio di una terribile tragedia è perché la natura di quell'amore non è stata compresa. Nella tua lettera di stamattina tu dici una cosa che mi dà coraggio. Devo ricordarla. Scrivi che è mio dovere verso di te e verso me stesso vivere, malgrado tutto. Credo sia vero. Ci proverò e lo farò. Voglio che tu tenga informato Mr. Humphries dei tuoi spostamenti, così che quando viene mi possa dire cosa fai. Credo che gli avvocati possano vedere i detenuti con una certa frequenza, così potrò comunicare con te. Sono così felice che tu sia partito. So cosa deve esserti costato. Per me sarebbe stato un tormento pensarti in Inghilterra mentre il tuo nome veniva fatto in tribunale. Spero tu abbia copie di tutti i miei libri. I miei sono stati tutti venduti. Tendo le mani verso di te. Possa io vivere per toccare i tuoi capelli e le tue mani. Credo che il tuo amore veglierà sulla mia vita. Se dovessi morire, voglio che tu viva una vita dolce e pacifica, in qualche luogo fra fiori, quadri, libri e moltissimo lavoro. Cerca di farmi avere tue notizie. Ti scrivo questa lettera in mezzo a grandi sofferenze. La lunga giornata in tribunale mi ha spossato. Carissimo ragazzo, dolcissimo fra tutti i giovani, amatissimo e più amabile, aspettami, aspettami. Io sono ora, come sempre dal giorno in cui ci siamo conosciuti, devotamente il tuo, con un amore immortale. Natasha, amare è soffrire. Se non si vuol soffrire, non si deve amare. Però allora si soffre di non amare. Pertanto, amare è soffrire, non amare è soffrire, e soffrire è soffrire. Essere felice è amare. Allora essere felice è soffrire, ma soffrire ci rende infelici, pertanto per essere infelici si deve amare, o amare il soffrire, o soffrire per troppa felicità. Io spero che tu prenda appunti. Io non voglio mai sposarmi. Io voglio solamente divorziare. stato braccato, schifato, evitato, ucciso, deriso, sorpreso, indifeso, pestato, annullato, violato, castrato. Me ne sono andato per i fatti miei in un cinemino di periferia. Vado con le marchette, ragazzi sbandati, ventenni ammazzati nel giorno dei nati, con loro mi drogo ed altri emarginati. Mi do, mi danno quello che potete immaginare. Ehi tu, vuoi fare l'amore con me? 3.000 lire mi devi dare. Sì, 3.000 lire, sì, proprio così. 3.000 lire mi devi dare, 3.000 lire devi pagare, 3.000 lire stai con me, 3.000 lire se vuoi sapere, 3.000 lire se vuoi toccare. 3.000 lire e stai con me, 3.000 lire mi devi dare, 3.000 lire devi pagare. Anormale, schifoso, invertito, finocchio, malato, appestato, vizioso, corrotto, bastardo, ricchione, buchetto, bucone. Me ne vado a ridere, sì, a ridere, in un cinemino di periferia. Vado con le marchette, io pago, io rido, io pago, deriso, derido, derido, io bello, io brutto, io stanco, io fico. Ehi tu, vuoi toccare? Vuoi stare con me? Mi devi dare 3.000 lire. 3.000 lire, sì, sì, succede proprio così e ce la ridiamo di voi. Tremila lire mi devi dare, 3.000 lire devi pagare, 3.000 lire stai con me, 3.000 lire se vuoi sapere, 3.000 lire se vuoi toccare, 3.000 lire e stai con me, 3.000 lire mi devi dare. 3.000 lire devi pagare, l'ultima fila è riservata, nessuno mai potrà vederci, l'ultima fila è riservata, nessuno mai potrà vederci, nessuno mai. Nessuno mai. 3.000 lire mi devi dare, 3.000 lire devi pagare, 3.000 lire stai con me, 3.000 lire se puoi sapere, nessuno mai. Nessuno mai. Nessuno mai. Speravo che affidando all'acqua del Tevere la tua immagine, questa si sarebbe allontanata, dileguata, dissolta, come i tronchi, i rifiuti e i fiori marci che il fiume trascina via. Non è così. E più il tempo passa, più il tuo ricordo mi tortura. Ero sgomento per la violenza e la follia della mia reazione. Le cose erano dunque già precipitate. Già ero al punto di non poter immaginare la vita senza di te. Non me l'ero formulato con la ragione, ma il cuore, evidentemente, aveva corso per conto suo, senza informare la mente e tantomeno il corpo. Ora dovevo prendere atto che il cuore aveva bruciato le tappe. Solo il corpo ancora resisteva. Al corpo bastava la tua vicinanza, poterti sfiorare i capelli con le mani, accogliere con un brivido il tuo braccio quando mi cingeva la spalla. E dunque la mente si diceva che, se anche fossimo rimasti solo amici, non avrebbe avuto importanza, e si consolava quel giorno maledetto pensando che quando saresti stato lontano per questo viaggio avremmo potuto comunicare ogni giorno per telefono. Non sapeva la mente quanto sarebbe stato difficile trovarti, e non prevedeva quanto avrebbero sofferto mente e cuore quando avrei passato le ore tormentandomi in attesa di un tuo messaggio, o combattendo tra il bisogno di sentire la tua voce e il terrore di poter disturbare, o quando avrei trovato a lungo il tuo cellulare spento, senza motivo. Guardo l'orologio. Non è trascorsa neanche un'ora dal passaggio dell'infermiere. I secondi sembrano eterni. Nel reparto a quest'ora cala un silenzio. Solo i passi di qualcuno ogni tanto, ma non sono i tuoi. Da tempo non li sento più. Ogni momento spero che, aprendosi la porta, possa vedere il tuo viso. Troppo tempo ormai. Sono nel peggiore dei mondi possibili, una terra di nessuno, desolata, in cui la percezione delle cose inizia ad alternarsi e tutto fa paura e niente sembra sopportabile. 22 anni separano il mio amore dal tuo. Troppi, mi dicevano tutti. Lascia stare, ti farei male, che senso ha? Sai quanti ragazzi così belli puoi trovare? Eppure abbiamo passato mesi indimenticabili. Ormai quasi vivevi da me. Il nostro amore che cresceva giorno per giorno, le nostre confidenze, le nostre paure, ogni giorno era una scoperta. Innamorarmi di nuovo alla mia età. Eppure era successo. E per quanti sforzi avessi fatto per resistere, era tutto inutile e alla fine mi ero lasciato andare. Poi lui, quel tuo collega, quel viaggio di lavoro, il telefono sempre spento, le risposte strane, vaghe, il tono cambiato della tua voce, la tua rabbia vomitata addosso al telefono quando avevi letto tutti i miei messaggi, che ti opprimevo, che non ti lasciavo vivere, e questo è il prezzo dell'amore. E non c'è pietà, non c'è perdono. Perché? Perché mi fai questo? Fino a quell'ultimo messaggio di sparire dalla tua vita per un po'. Un messaggio. Neanche una telefonata. Neanche la tua voce. Sono uscito. Ogni angolo che giravo sentivo il tuo odore, ogni via ti vedevo mentre passeggiavamo, ho ripercorso tutti i luoghi dei nostri incontri, delle mie speranze, luoghi dove il mio amore per te era nato, sono corso a casa. Xanax, N, Rohypnol, la ricerca di tutte le pasticche, la difficoltà nel maneggiare la lametta, il telefono di casa che continua a squillare mentre mi assopivo nel torpore dell'acqua sempre più rossa, la voce della portiera in sogno che urla, la barella, l'infermiere, una luce forte, l'aria che mi manca, voci lontane, la voce di Rocco, unico mio vero amico. Mi hanno finalmente dimesso. Al momento del congedo il primario ha detto: lei ha rischiato grosso, lo sa? Ha perso moltissimo sangue, mi ascolti bene, nessun amore infelice vale il sacrificio della vita. Io non ho replicato, ma ero in totale disaccordo, perché la vita senza di te mi appare indegna di essere vissuta. Uscendo ho girato lo sguardo verso il corridoio che mi aveva ospitato in queste settimane. Erano tutti fermi a guardarmi. Infermieri, il mio vicino di letto. Erano loro che mi avevano salvato. Erano loro che mi erano stati vicini momento per momento. Anche la donna delle pulizie mi salutava. Oh, e che te ne vai senza baciarmi? T'avevo sopportato per 3 settimane. La abbracciai A Carlè, sei vecchio, ma sei bello, non te sprega così. Tornando a casa mi sono fatto lasciare un momento da solo sul ponte. Ho fatto a pezzi il biglietto con cui avevo provato a risponderti. L'ho gettato in acqua. E dopo una certa esitazione ho distrutto anche il tuo. Volevo affidare le nostre parole al fiume, che le portasse al mare. Cercavo di ascoltare il mio cuore, ma cosa poteva dirmi ormai? Fissai l'infermiere che mi stava venendo a prendere per andare a casa. Lo sa? Noi artisti saremmo capaci di tutto per un bel effetto, anche di ricorrere ai ricordi più dolorosi pur di spremere il tono giusto per un'opera. Guardai ancora i pezzi di carta che il fiume stava portando via. Ciao Lucio. Allora lui ha deciso la casa, prendete la casa. Padre. Non ha deciso lui, abbiamo deciso insieme. Ah, avete deciso insieme di comprare? Come mai che avete problemi? Problemi? No, perché? Ma se uno sta bene insieme non capisco perché deve andare a prendere una. Uno dice viviamo insieme, quando vuol dire che le cose non vanno. Infatti poi quando vedi uno dice perché non ci sposiamo? Se proprio cominciate che non ce la fate più, ci facciamo un figlio così. Quando alla fine vi odiate ma siete vecchi, dice che ci lasciamo adesso che siamo vecchi. E quello è il percorso. Sì, sei incoraggiante. Se penso a tutte le volte che sono finito a terra, a tutte quelle volte che dicevo questa volta basta, l'amore ti fa strisciare, assaporare la terra, ti uccide e ti fa risorgere allo stesso tempo. Non è facile vivere con il cuore incerottato da mille ferite, non è facile vivere senza la paura di innamorarsi ancora, di patire, soffrire, sentire il dolore. Questa vita ti dà mille motivi per non amare. È più facile scappare che restare. È più facile ferire che amare. È più facile seppellire i sentimenti per paura di finire ancora a terra. Voglio aprire mille porte e poi mille ancora. E non mi importa se nessuna darà luce alla mia anima. Non mi importa se quelle porte che dovevano darti la speranza ti si chiudono in faccia buttandoti a terra. Ciò che importa è che tu culli nel cuore la speranza di un amore, sempre. Ciò che importa è che il passato non seppellisca la voglia di vivere. Perché anche distesi per terra, dalle mille delusioni, si può vedere il cielo pieno di stelle.